Euroreportage. L'Europa unita anche per le multe, di Claudia Vanni. Qual è il limite di velocità che si deve rispettare sull'autostrada spagnola? Per andare in bici in Svezia si deve indossare il caschetto? Valigia in mano, auto in folle, pronti ad ingranare la prima e iniziare le vacanze estive, magari in giro per l'Europa. La convenzione di Schengen permette di circolare liberamente, senza più controlli alle frontiere. Ma è sempre bene ricordare che i codici della strada non sono gli stessi. Paese che vai, legge che trovi. Una ripassatina alle regole stradali dei compagni europei quindi non fa male. Adesso è ancora più semplice, la Commissione europea ha infatti targato, tanto per rimanere in tema, un'applicazione per smartphone ad hoc. Going Abroad, questo è il nome, una app che fornisce tutte le disposizioni di sicurezza stradale in vigore nei diversi paesi dell'Unione. Basta un click sul cellulare e magari si evita così una multa salata. Sì, perché non si creda che le contravvenzioni prese in Austria, per esempio, non arrivino fino al proprio domicilio italiano. Fino a poco fa valevano accordi bilaterali tra stati membri, che si impegnavano a fornire reciprocamente le informazioni sul trasgressore. Negli ultimi tempi l'Europa ha fatto un passo ulteriore con la direttiva 82 del 2011, diventata effettiva nel novembre 2013, che prevede lo scambio transfrontaliero di informazioni in caso di violazioni stradali. L'obiettivo è potenziare la sicurezza. In pratica questo si traduce con la punibilità concreta, amministrativa o penale del trasgressore, come spiega il primo dirigente della Polizia di Stato, Santo Puccia. Viene attivato uno scambio di informazioni, cioè la possibilità degli stati membri di condividere i dati sulla immatricolazione dei veicoli stranieri in modo da individuare poi il veicolo responsabile della violazione, quindi il soggetto intestatario e quindi poi il responsabile della violazione. L'avvocato Lorenzo Puglisi spiega i passaggi. Le autorità di ciascuno stato membro possono accedere alle informazioni delle motorizzazioni negli altri paesi. Questo significa che colui che commette una violazione stradale al di fuori dei confini nazionali viene identificato, riceve non tanto il verbale ma una lettera di informazione tradotta nella lingua del proprio paese, quindi se io italiano commetto una violazione in Francia piuttosto che in Germania non mi arriverà un verbale in tedesco o in francese ma mi arriverà una lettera in italiano nella quale mi si spiega che tipo di violazione ho commesso e nella quale mi si avverte che ho 60 giorni di tempo per esporre le mie osservazioni o le mie contestazioni. È il caso in cui l'intestatario del veicolo non fosse il conducente al momento della violazione. Il proprietario quindi potrà indicarlo nel modulo di risposta incluso nella comunicazione che gli è stata recapitata. Se poi entro il 60° giorno non viene corrisposto quanto dovuto, automaticamente lo Stato potrà dar vita a tutti gli strumenti di cui esso dispone per mettere in esecuzione la multa. Attualmente gli importi delle sanzioni sono ancora calcolati su base nazionale, per cui ciascuno Stato membro ha la possibilità di determinare l'ammontare per ciascun tipo di violazione. Per esempio in Spagna, nel momento in cui un automobilista già multato, che non ha pagato la multa, dovesse recarsi di nuovo oltre confine, quindi in Spagna, e dovesse essere fermato dall'autorità di polizia locale, automaticamente gli verrebbe addebitata una sanzione che dovrebbe pagare tra l'altro immediatamente in quel paese. E oltre alla sanzione la Spagna applica anche delle penali molto severe, per cui si rischia davvero di pagare più del triplo rispetto alla multa che inizialmente si è preso. Attualmente non tutti gli stati membri dell'Unione si sono impegnati a condividere i dati delle motorizzazioni, come specifica l'avvocato Puglisi. La direttiva comunitaria non è stata ratificata da Inghilterra, Irlanda e Danimarca, per cui per questi paesi ancora non si può estendere questo tipo di normativa. È una questione che attiene alla sovranità di ciascuno Stato membro, quella di valutare o meno l'adottabilità di questo tipo di normativa. Certo è che probabilmente c'è un po' di gelosia nel dover fornire informazioni di propri enti nazionali. Cioè probabilmente per l'Inghilterra il fatto di consentire a noi italiani, ad esempio, di accedere alle informazioni della loro motorizzazione, non era probabilmente una cosa che gli aggradava particolarmente. In Italia il decreto legislativo 37/2014 del marzo scorso ha permesso il recepimento della direttiva nel nostro ordinamento, ma allo stato attuale il sistema non è ancora attivo a livello europeo. Il primordio, tale Eucaris, affonda le radici già nel 2000. I ritardi nell'attuazione, si badi bene, non sono il frutto delle tanto chiacchierate lentezze italiane. Al contrario, il nostro paese è piuttosto vicino al completamento dell'impianto informatico, così come Olanda, Belgio, Germania e Polonia. Tali informazioni ci arrivano da fonti interne al Ministero dei Trasporti, impegnate nella realizzazione della piattaforma. Ecco qui spiegato il ritardo. La direttiva comunitaria stabilisce infatti che la sanzione possa essere recapitata solo dopo aver verificato che non si tratti di un veicolo rubato. Per poterlo controllare occorre accedere alla base dati del Ministero dell'Interno e nello specifico al registro dei veicoli. Un passaggio questo non immediato perché il trattamento dei dati è vincolato al rispetto della privacy. Le motorizzazioni e i ministeri degli interni quindi starebbero lavorando proprio alla realizzazione di un sistema informatico che permetta la consultazione diretta, rispettando le tutele che il garante della privacy ha richiesto. A dirla tutta c'è poi un altro inghippo. Lo scorso maggio la Corte di Giustizia europea ha contestato le basi di legittimità della direttiva, come spiega il dirigente Puccia della Polizia di Stato. La proposta del 2008 era basata sulla competenza dell'Unione in materia di sicurezza dei trasporti. In realtà poi tale direttiva riguarda la cooperazione di polizia, cooperazione in materia di polizia, e quindi diciamo è semplicemente un fatto al momento formale. Gli effetti rimarranno validi ancora per un anno per emanare una nuova direttiva sull'ambito della cooperazione di polizia. Entro maggio 2015 quindi dovrà essere riformulata nella versione corretta. I mesi utili a disposizione ci sono, a patto che le commissioni di questa nuova Europa post-elezioni trovino consistenza. In aggiunta a questo intoppo formale ci sarebbe anche la difficoltà pratica per la riscossione delle multe, come rileva l'avvocato Lorenzo Puglisi. Imponiamo anche che l'autorità straniera riesca a notificare un verbale al di là dei confini nazionali perché attinge informazioni dalla motorizzazione civile di quel paese, cioè del paese in cui il veicolo sanzionato è stato immatricolato. Qual è il punto? Che poi la multa va fatta pagare, e se la multa non viene pagata spontaneamente, cosa accade? Non esiste allo stato attuale un sistema europeo equiparabile a quello di Equitalia, per cui i mezzi di riscossione sono ancora oggi rimessi ai singoli stati membri. Questo cosa significa? Che ci sono stati membri, ad esempio, che adottano politiche per cui al primo accesso nel loro paese automaticamente vengono fermati i veicoli e vengono sanzionati con sanzioni amministrative. Esistono paesi, anche se al di fuori della comunità europea, tipo la Svizzera, per la quale invece è in vigore un accordo bilaterale, nel quale addirittura sono state previste sanzioni penali, quindi non amministrative, nel caso di mancato pagamento del verbale di contestazione, ma ci sono anche paesi che allo stato attuale non hanno un sistema funzionale da questo punto di vista. Quindi, diciamo che ancora manca un tassello per rendere davvero cogente la riforma che si è voluta introdurre. Punire i trasgressori transfrontalieri diventa un'esigenza incalzante se si considera che le infrazioni dei conducenti stranieri sono 3 volte superiori rispetto a quelle dei residenti nello Stato europeo specifico. In paesi dove il traffico e il turismo sono alti, come Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Spagna, le violazioni per velocità commesse dai non residenti possono arrivare a toccare il 50% delle infrazioni totali. La direttiva europea 82 del 2011 punisce nello specifico 8 tipologie di violazione: il superamento dei limiti di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato arresto al semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, il mancato uso del casco per i motociclisti e poi l'uso di corsie riservate per emergenza o trasporto pubblico, fino all'uso di cellulari o dispositivi simili alla guida. La Commissione europea calcola che che se la velocità media di guida scendesse di un chilometro orario, su tutte le strade europee potrebbero essere evitate 2.200 morti all'anno. Altrettante vite si salverebbero se il 99% dei viaggiatori indossasse la cintura di sicurezza. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.